senti i petali di cinevanti, parvenze, serite bianche, bianche. Oro. Da cielo azzurro esiste una città dell'oro. Con uno splendido cancello, con una chiara stella. Fiori di vento alle spose, dei rami per finché mimose, lucenti petali di cinevanti, parvenze, serite bianche, oro. Azzurro esiste una città dell'oro. Con uno splendido cancello, con una chiara stella. Lucenti petali di cinevanti, parvenze, serite bianche, bianche. Lassù una luminosa stella splende accesa di rosso vivo fuoco, come un amore già ricambiato, una mano tende quello che ha dato. Dal cielo azzurro esiste una città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste una città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste una città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste una città, città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste una città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste una città. Dal cielo città dell'oro. Thank you. azzurro esiste una città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste una città, città dell'oro. Fiori sui venti alle spose, nei rami verbinghe mimose, lucenti petali, Sicilie manti, parvenze serie bianche. Anche lassù una luminosa stella splende, accesa d'un rosso vivo fuoco, come un amore già ricambiato, una mano tende quello che ha donato. Lassù un leone, un lupo d'incanto, e con loro un'aquila d'oro. Il suo sguardo non si scorda mai, dal cielo muove d'ali. Dal cielo azzurro esiste una città, città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste una città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste una città dell'oro. E fiori sui venti alle spose, nei rami per vinghe mimose, lucenti petali di ciglie, parvenze steriche bianche. Lassù una luminosa stella splende, accesa d'un rosso vivo fuoco. Come un amore già ricambiato, una come un amore già ricambiato, una mano è quello che ha dato. Lassù un leone, un lupo d'incanto, e con loro un'aquila d'oro. Come un amore già ricambiato, una mano è quello che ha dato. Lassù un leone. Lassù un leone, un lupo d'incanto, e con loro un'aquila d'oro. Il suo sguardo non si scorda mai, dal cielo muove d'ali il volo. Dal cielo azzurro esiste una città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste una città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste una città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste una città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste una città dell'oro. Dal cielo azzurro esiste.